dovere, però ecco, una piccola nota così a più a pagina, se vogliamo, per sottolineare il fatto che la polveriera è fin dalle sue, insomma, dalla sua nascita e nel suo percorso uno spazio innanzitutto antisessista, quindi contrario a tutte quelle che sono le dinamiche di prevaricazione. E purtroppo però, come per molti spazi, non è stato e non è un percorso così facile né così scontato da, insomma, da attuare e da realizzare, e che ha previsto diciamo, e si è appoggiato all'impegno di tutti e soprattutto di tutte le donne e le individualità femminili che lo attraversano e che lo sostengono. Soprattutto così, per dare un po' di contesto, nelle ultime settimane, come forse avrete saputo, la polveriera ha attraversato un momento molto particolare, che, insomma, in cui finalmente, ecco, è riuscita a liberarsi di certe problematiche, di certe situazioni che da tempo affliggevano, insomma, il posto, e che non è un caso, insomma, sono collegate in realtà anche al problema del sessismo, perché si erano create delle situazioni che rendevano molto spesso, all'esterno ovviamente del posto, per, insomma, per arrivare al posto, che rendevano difficile, problematica per molte individualità femminili, e non solo, anche individualità maschili che magari non si riconoscono propriamente nell'immaginario collettivo classico dell'uomo propriamente inteso, rendevano difficile la frequentazione del posto. Insomma, c'era veramente un problema di di sovrappopolazione di individui che, insomma, la cui presenza creava un problema di veramente proprio di frequentazione basilare, insomma, di poter venire qui in tranquillità, in sicurezza e vivere il posto. Quindi questo nelle ultime 2 settimane, fortunatamente, grazie, insomma, all'apporto di tutti i compagni e le compagne che si sono spesi anche in questo senso, almeno al momento, insomma, è un pare un almeno nell'emergenza, insomma, che il problema sia così sicuramente risolto. Detto questo, poi ovviamente, come tutti noi sappiamo, il problema del sessismo e della prevaricazione non si risolve purtroppo facilmente, e spesso magari richiede un lavoro lungo e da parte di tutta la collettività, insomma, che tutta la collettività se ne deve far carico. Questo, insomma, oggi è anche la giornata nazionale contro l'omofobia, che per noi, insomma, che per molti di noi e molte di noi rientra ovviamente e fa parte del tema del sessismo, del tema della questione di genere, e che, così come le giornate, diciamo, classiche dedicate alle donne o comunque a tutte quelle che vengono considerate delle minoranze o quantomeno delle, in questo caso anche delle devianze, no? Come l'omosessualità non basta chiaramente una giornata, assolutamente, anzi, l'omofobismo, la prevaricazione, insomma, sono lotte che si portano avanti ogni giorno, nel privato, nel politico, nel pubblico, ognuno alla sua maniera, ognuno con i suoi metodi e con i suoi percorsi. Libri come questo sicuramente aiutano e indicano un po' la strada su quelle che possono essere le pratiche anche con cui si combatte il sessismo e la prevaricazione, e ci auguriamo, insomma, che questi percorsi possano sempre più essere condivisi e praticati in tutta libertà, in tutta sicurezza, da tutte, tutti e da tutte le individualità, appunto, che, ripeto, non corrispondono per forza, non si ritrovano in un binarismo di genere. Quindi lascio la parola alle compagne e vi ringrazio. Vabbè, anche Nonna di Meno Firenze ringrazia l'invito della polveriera a questo incontro che ci trova all'interno di un fitto palinsesto del Festival di Letteratura Sociale, e abbiamo invitato Lidia Cirillo, che ci viene a parlare del libro Se il mondo torna uomo, le donne e la regressione in Europa, che ha una collettanea, diciamolo così, dove ci sono varie autrici. Qui le dico velocemente: sono Silvia Brignoni, Massimo Preado, Claudio Mattolucci, Ilaria Santoemma, Carlotta Cossutta, Eleonora Cirant, Romina Amicolo, Romina ed Amicolo di nuovo, e Roberta Poletti, che hanno dato tutti i contributi. Adesso magari passiamo la parola direttamente alla nostra invitata e poi magari iniziamo un dialogo in cui, come non è di meno, ti facciamo delle domande per poi chiunque voglia possa dialogare con te su questo testo, che già dal titolo mi sembra molto interessante. E magari se ci dici anche alcune cose per presentarti, così raccontiamo un po' in generale anche le tue ricerche fino ad arrivare a questo testo, un po' per chi magari non conosce approfonditamente il tuo lavoro. Beh, io non vorrei perdere molto tempo su me stessa. Due parole: sono stata responsabile di una collana di quaderni femministi che si chiama I Quaderni Viola. Ho scritto numerosi libri che hanno come oggetto i movimenti, cioè come i movimenti si manifestano, quali sono le loro dinamiche, cioè un interesse particolare specifico ai movimenti e alle lotte. E quindi su questo ho scritto tante cose che poi chi vuole sono su Wikipedia, può vederli se viene un minimo di curiosità nei confronti del mio lavoro. Siccome non voglio fare una relazione lunga, voglio farla breve e preferisco avere delle domande, vado al sodo. E quale sarebbe il sodo? Il sodo è il seguente. Insieme ad altre 8 persone, ci abbiamo lavorato in 9, abbiamo scritto un libro che ha come obiettivo quello di mettere in guardia, quello di dire fate attenzione, perché proprio nel momento in cui un grande movimento di donne si manifesta a livello internazionale, dal Cile, Argentina, Brasile, all'Europa, la Spagna, l'Italia, l'Irlanda, l'Islanda e perfino il Kerala, cioè una mobilitazione che forse è l'unica a livello internazionale, una mobilitazione di massa con un senso progressivo così accentuato, proprio mentre questo avviene, non contraddittoriamente, ma quasi di logica conseguenza, le donne e i soggetti queer, perché bisogna tenere conto di questo incrocio, di questo elemento comune, sono sottoposte a un violento attacco che è appena agli inizi. Allora, che cosa abbiamo cercato di fare? Presentare i vari aspetti di questo attacco. Una cosa che preciso, forse ovvia, però voglio precisarla. Non è che ci sia una centrale, no? Una specie di spettra che agisce contro le donne. Una piccola spettra c'è, e sono gli integralisti cattolici, ortodossi ed evangelicali, dei quali io parlo abbondantemente nel mio contributo a questo libro. In Italia abbiamo un signore che si chiama, che è un appartenente appunto a questi movimenti, il quale dice: le donne, per il bene della società, per il bene della famiglia, le donne devono essere sottomesse. E sottomesse vuol dire messe sotto, nel caso qualcuno non capisse la finezza dell'argomentazione. Quindi c'è questo nucleo antifemminile, antifemminista, omofobo, che ha un ruolo sul quale io insieme ad altri abbiamo indagato, però non è solo questo, non c'è una centrale spettra, ci sono una serie di relazioni di potere che reagiscono all'ascesa delle donne, che reagiscono come sempre avviene quando c'è un movimento in ascesa e quando c'è un soggetto che si vuole subalterno, che si mette in moto. Allora, quali aspetti abbiamo esaminato di tutto questo? I primi 4 interventi che trovate nel libro parlano del rapporto perverso tra la destra radicale, su cui poi dirò alcune cose, e gli integralismi religiosi, quindi i primi 4 contributi. Si parla poi del lavoro, cioè come si cerca di disperdere la forza femminile reintroducendo forme di lavoro che desocializzino le donne, che le separino le une dalle altre. Si parla di violenza, io vi consiglio, chi lo leggerà, ci sono due articoli molto interessanti di una giurista che dimostrano come i processi sono ancora quelli che denunciammo decine di anni fa, in cui la donna passava dall'essere la vittima all'essere l'indagata. E allora uno potrebbe dirsi, vabbè, è passato tanto tempo, questa cosa della violenza alle donne è diventata quasi un luogo comune, ne parla perfino la televisione di Berlusconi, dovrebbe essere assorbita. Non è così, perché il nostro diritto continua da questo punto di vista ad essere guidato dal codice fascista e i processi sono una vergogna, così come i processi che riguardano in modo particolare le immigrate, ma non soltanto. Alla fine poi si parla dell'attacco ai luoghi femministi, luoghi occupati come questi, in cui ci sono forti componenti femministe, oppure luoghi di donne, luoghi femministi. E queste cose, diciamo, i vari aspetti vengono esaminati. Io mi voglio oggi soffermarmi sulla parte che ho elaborato insieme ad altre, a Silvia Brignoni, a Massimo Prearo e a Claudia Mattalucci, cioè la parte che riguarda la destra. Perché su questo, a mio avviso, va fatto un discorso il più possibile chiaro. Il mio articolo si chiama La fine dell'illusione liberale. Che cosa significa l'illusione liberale? L'illusione liberale è quella secondo la quale, che ha caratterizzato la cosiddetta sinistra, tipo PD o tipo Hollande in Francia, eccetera, la quale non difende minimamente i diritti del lavoro subalterno, dei disoccupati, dei precari, e affida le sue caratteristiche di sinistra presunta a una serie di diritti molto blandi, alla democrazia, noi siamo quelli che mantengono la democrazia, attenzione al pericolo della destra, i sovranisti, eccetera, eccetera. Che poi, e quindi, diciamo, questa illusione liberale, cioè illusione che si possono bastonare le popolazioni e poi mantenere quella che Marx chiamava democrazia formale, che comunque in qualche modo è ancora una democrazia, sia pure molto discutibile e molto poco sostanziosa, alcuni diritti, eccetera eccetera. Invece non è così, perché quando la gente è bastonata si arrabbia, e quando si arrabbia si radicalizza a destra oppure si radicalizza a sinistra. In realtà le rivoluzioni e al contrario l'avvento di destre fascisteggianti o fasciste eccetera avvengono per le stesse ragioni, cioè avvengono quando la situazione diventa fortemente critica e quindi c'è una forte arrabbiatura sociale, una radicalizzazione, una ricerca di altre vie. E siccome a sinistra oggi non c'è nulla, o c'è pochissimo, dei frammenti, delle cose che possa in qualche modo presentarsi come alternativa, c'è una radicalizzazione a destra e quindi finisce l'illusione liberale dei vari centrosinistra nelle varie versioni, in tutti i loro leader, che siano Zingaretti, che sia, cioè finisce questa illusione e noi ci troviamo di fronte a dei populismi di destra. Ora noi dobbiamo cercare di capire in quale contesto viviamo. Noi all'interno di Non Una di Meno di Milano stiamo facendo un dibattito e in questo dibattito c'è una discussione eccetera, e io ho cercato di far presente, fate attenzione, perché noi non possiamo decidere che cosa vogliamo fare, come la vogliamo fare, come ci vogliamo organizzare, a prescindere da una valutazione del contesto in cui viviamo. dove siamo, in quale contesto viviamo, che cavolo sta succedendo. C'è il fascismo? Ovviamente no, perché se ci fosse questo luogo sicuramente non ci sarebbe, non ci sarebbero le manifestazioni, molti di noi sarebbero in galera, cioè è inutile parlare di fascismo. E tra l'altro non ci, diciamo, ci sono molte ragioni per pensare che in questo momento i circoli economici principali, gli apparati di Stato, non hanno un particolare interesse a sostenere un regime fascista, perché il nemico contro cui scagliarono il fascismo, cioè il comunismo, il socialismo, la rivoluzione, l'ottobre, sono defunti, sono morti. Ci si augura che in qualche modo possano riprendersi, o saranno altri fenomeni veramente, io penso, ma certo quello che era il vecchio avversario non c'è più. Non solo, ma ci sono molti elementi per pensare che chi difende i propri interessi stia molto attenta a chi mette al potere con le armi atomiche in gioco. Cioè, oggi un matto come Hitler si troverebbe le armi atomiche nelle mani. Quindi ci sono molte ragioni per pensare che allo stato attuale delle cose non c'è né il fascismo né l'imminenza del fascismo. Però attenzione, questo discorso vale per sempre, nemmeno per sogno. Non vale per sempre, perché noi ci troviamo in presenza di una crisi economica e politica e di un accumularsi di contraddizioni che non sappiamo dove vanno. Cioè non è scritto da nessuna parte che a un certo punto l'aggravarsi delle contraddizioni non porti a delle scelte di carattere diverso. Peraltro non esiste solamente il fascismo storico, nel senso il fascismo degli anni 20-30, esistono degli elementi transstorici, cioè vuol dire che appartengono a tutte le forme di integralismo politico, chiamiamolo così, che non sono meno pericolose, meno violente. Pensiamo per esempio a Erdogan, che cos'è? Anche lui è populismo di destra, però diciamo ammazza i suoi contendenti, chi non gli obbedisce. Quindi c'è una situazione satura di rischio contro la quale però ancora la strada è aperta. Cioè una dei rischi di dire oggi c'è il fascismo è anche quella di credere che il discorso sia chiuso. Non è fatto così, le contraddizioni sono assolutamente aperte e noi abbiamo voluto spiegare perché queste contraddizioni sono aperte. Qual è la cosa principale come donne e come soggetti sessualità non conformi? La cosa fondamentale oggi a cui prestare attenzione è il matrimonio tra destra, estrema destra, populista, o come la vogliamo chiamare. A molti, compreso a me, il termine populista non piace. Chiamiamola destra radicale, estrema destra, diciamo così. Allora, questo connubio tra estrema destra e integralismi religiosi, perché questo è quello che si dirige in modo particolare contro le donne, contro le sessualità non conformi, le lesbiche, i gay, i trans, eccetera. E il libro contiene i nomi, i cognomi, la descrizione dei personaggi che sono protagonisti di questa vicenda. A Verona, noi abbiamo fatto una meravigliosa manifestazione nei confronti del congresso delle famiglie che li contiene al proprio interno, cioè i rappresentanti di tutto questo si trovano nel congresso delle famiglie. Sono un mondo variegato, non tutto uguale, perché si passa da posizioni più moderate a posizioni più violente. Tra i partecipanti c'è pure chi chiede la pena di morte per gli omosessuali. Quindi questo mondo oscuro, che però esisteva anche prima, bisogna capire qual è la logica, perché questa gente qui, come per esempio i neocatecumenali, le fevriani e tutta questa gente, non è che sono nati ieri, esistono da molto tempo e diciamo, che cos'è la novità? È che saltano a cavallo sulla destra radicale e attraverso questa arrivano laddove possono combinare guai enormi, cioè a diventare ministri, a proporre leggi, vediamo il decreto Pillon, vediamo. Allora, chi sono questi personaggi? Fatemi segno quando il tempo è passato. Allora, chi sono questi personaggi? Ve li presento alcuni. Io mi sono inguaiata letteralmente un'estate perché ho dovuto fare una ricerca sui siti di questa il manicomio. Cioè proprio ho fatto un'estate tragica perché ho consultato tutti i possibili siti possibili, immaginabili, eccetera. Allora, chi sono? Cominciamo col dire, sono i lefebriani. La Lega aveva già avuto un rapporto con i lefebriani. Irene Pivetti, che è stata presidente della Camera a nome della Lega nel primo governo Berlusconi, è una lefebriana. Chi sono? Una piccola setta antisemita. Per dirvi che personaggi sono, sono persone che danno credibilità, che ritengono veri i protocolli dei savi anziani di Sion, un documento della polizia zarista fatto per indirizzare il malcontento contro lo zar sugli ebrei. Cioè gli ebrei erano il capro espiatorio in Russia, perciò poi molti di loro sono diventati rivoluzionari al tempo della rivoluzione d'ottobre, perché erano il capro espiatorio per ragioni religiose, per varie ragioni. E quindi questo documento, noto a qualsiasi persona abbia in qualche modo fatto storia, costruito storia, eccetera, che è un falso noto, viene accreditato, viene considerato vero. E quando Irene Pivetti andò alla Camera come presidente, si scavò nella sua storia e si scoprì che aveva detto che la Shoah era la giusta punizione per gli ebrei per aver ucciso Gesù di Nazareth. Questa gente noi ci troviamo tra le scatole, vi potete immaginare. I neocatecumenali. I neocatecumenali sono un movimento ecclesiale potentissimo che ha portato in piazza a Roma nel 2015 400-500 mila persone, una manifestazione oceanica che ha bloccato la richiesta di diritti, hanno avuto paura, diciamo, tutti quanti, questi sono tanti, questi neocatecumenali rifiutano la contraccezione, fin qui fatti loro, fanno figli come conigli, ma sono affari loro, se ne vogliono fare 10, 100, eccetera. Il guaio è che ce lo vogliono imporre a noi, cioè non usa, l'uso dei contraccettivi è peccato, e via di... E il libro descrive tutti questi fenomeni e soprattutto descrive quali sono i torbidi legami tra l'estrema destra peggiore e questi gruppi che non sono solo cattolici, sono anche ortodossi, sono anche evangelicali. E, per esempio, scavando, ho scoperto una cosa che in Italia era poco nota attraverso i testi, poi sono cattolici stessi che denunciano. La cosa migliore è andare nei testi, nei cattolici che non sono integralisti, che denunciano questi fenomeni. Allora, il protagonista di una raccolta di 1.700.000 firme in Spagna contro l'aborto, Ignazio Arzuaga, è collegato a un'organizzazione messicana che si chiama El Yunque, cioè l'incudine, il cui, diciamo così, codice, la cui... è quello della difesa della religione a costo dell'omicidio. Pensate un po', contro l'aborto, perché non si possono, non si può abortire, però si può, la gente si può ammazzare quando è nata, e i bambini li possono mandare nella camera a gas quando sono cresciuti, cioè è veramente una banda di pazzi. Però diciamo, uno potrebbe sentirsi tranquillo, no? Dire vabbè, ma questi è il Medioevo, ma che diavolo. Allora fate attenzione, perché già prima di Hitler l'antisemitismo veniva considerato una superstizione medievale, poi è arrivata la Shoah. Cioè, naturalmente io non voglio mettere nessuno in allarme perché non siamo a questo. Io voglio soltanto spiegare, e questo libro vuole solo spiegare, attenzione, i nemici sono questi, usano queste tattiche, fanno queste cose, non siamo al fascismo, siamo in un'epoca diversa, i problemi sono diversi, ma tenere le antenne alzate perché i rischi non finiscono mai. Grazie tantissime per questo intervento. Io sono Angela di Non Una di Meno Firenze e abbiamo parlato, diciamo, fra di noi del tuo libro, molti di noi l'hanno letto. Uno del, diciamo, gli articoli saggi più interessanti è quello che riguarda appunto questo attivismo antiabortista, no, che stavi raccontando adesso, quindi questi cristiani che comunque anche il Papa, no? Anche i cristiani che non sono più estremisti comunque sono antiabortisti e il Papa è contrario agli anticoncezionali, no? Quindi chi più chi meno sono comunque tutti contrari. Loro hanno questa tecnica di comunicazione che è molto vincente, cioè loro si presentano positivamente, non come antiabortisti ma come provvita. Loro cercano sempre di mostrare l'umanità del concepito, si è visto anche da poco, hanno pubblicato dei manifesti a Roma, a Milano, e cercano di proporsi come chi in realtà vuole difendere le donne nel loro diritto ad avere figli. Diciamo, penso che tu ormai abbia girato tanto l'Italia, hai presentato. Qual è il metodo di comunicazione che secondo te bisogna usare per smascherare questi che in realtà vogliono togliere la libertà di scelta alle donne? No, vabbè, preferibile fare. Voglio dire prima di tutto una cosa sulla differenza tra questi integralisti e i non integralisti. L'ha detta molto bene Bergoglio, le idee sono le stesse. Sono contro l'aborto, contro la contraccezione, contro l'omosessualità, contro il divorzio, eccetera. Cioè contro tutte quelle libertà individuali che nel corso degli ultimi decenni le lotte sia delle donne sia delle persone queer erano riusciti ad ottenere. La differenza è il livello di aggressività. Infatti Bergoglio dice il metodo. Perché non vuole, prima di tutto non vuole identificarsi così strettamente con la destra, avverte i rischi di un'identificazione con la destra e soprattutto non vuole suscitare un moto di ripulsa nella società di fronte a questi problemi. Allora, certo questi fanno una propaganda efficace. E diciamo, noi dobbiamo imparare, questo mio parere personale, dobbiamo imparare a parlare linguaggi umani, perché il nostro dibattito è molto un dibattito per iniziati, è molto un dibattito che non riesce a decostruire, non soltanto per il linguaggio, lasciamo perdere il linguaggio, cioè non lasciamolo perdere, ma le cose vanno, diciamo, semplificate, eccetera, ma anche perché le risposte che noi diamo non corrispondono alle a quello che c'ha la gente nella testa. Noi diciamo delle cose a partire da noi così come le pensiamo. Che cosa c'è nella testa la gente? Allora io ricordo che a proposito dell'aborto, perché vincemmo il referendum? Si fece un referendum contro l'aborto e noi lo vincemmo. Lo vincemmo perché le donne, moltissime donne, anche uomini, avevano vissuto l'esperienza. Allora l'ideologia di fronte all'esperienza non vale. Cioè io posso fare tutta l'ideologia che voglio, se poi batto il naso contro la realtà. Allora molte donne e uomini, in maniera diversa ovviamente, avevano vissuto questa esperienza e si rendevano conto che l'aborto doveva diventare in qualche modo un diritto. Oggi per molte ragioni l'aborto, grazie pure alla 194, grazie alla cultura della contraccezione, grazie anche a fenomeni negativi come la sterilità maschile legata all'inquinamento, è più difficile di prima restare incinte, e lo scontro rischia di diventare tutto ideologico. Il bambino non nato, difendiamo i diritti. A mio avviso la cosa sulla quale bisognerebbe battere è la violenza del costringere una donna a partorire. Ma la maternità richiede un tale impegno, sia nell'attesa, sia nel parto, sia nell'allattamento, sia dopo, cioè che tu non puoi costringere una persona a farlo. La disponibilità, diciamo, è fondamentale, però dobbiamo appunto fare attenzione in che lingua diciamo le cose che vogliamo dire. Anch'io ho alcuni pensieri sparsi, a partire da, anche da perché siamo noi a discutere questo libro, che finiscono con una domanda, così ti apro. Allora, sicuramente noi siamo qua a discutere come assemblea di Nonna di Meno Firenze, quindi diciamo che anche leggendo il libro viene immediatamente da immaginare questo libro come uno strumento politico, cioè come calato nel contesto che stiamo vivendo e come qualcosa che ci dice, ci dà una serie di elementi su cui riflettere per capire dove siamo. Certo che leggendolo viene da pensare, da un lato, che era il libro che andava scritto, perché è quello che sta succedendo intorno a noi, e dall'altro che è una grande pressione, nel senso che è avvilente, ovviamente. Cioè, nel libro, se lo leggete, emergono una serie di elementi che sono drammatici, cioè sono veramente elementi drammatici, e lo sono non solo per la connessione che riuscite a individuare e a far emergere, cioè proprio a mettere in luce, mettere sotto la luce, tra le destre e gli integralismi religiosi, ma anche, lo dico, finora non è stato nominato, il giro di denaro che esiste su questo, perché a volte ciò che non ci interroghiamo è il fatto che sono le risorse poi anche che rendono possibile una serie di operazioni su di noi e contro di noi. E, certo che diciamo, il libro è stato pubblicato qualche mese prima che riesplodesse un dibattito che ci ha riguardato molto, che è quello intorno a Verona, che tu hai nominato, per cui al Congresso Mondiale delle Famiglie, dove tutto ciò che dicevi, insomma, è stato evidente anche nella figura, ad esempio rispetto all'Italia, del ministro dell'interno Salvini, che oltre a farsi fotografare in giro con i peggio appunto dell'ultradestra, ma anche ha dato pieno appoggio al congresso partecipando direttamente ai lavori del congresso. Però aggiungo un tassello. Lo faccio perché quando tu dicevi che cos'è la regressione in Europa e che cos'è diciamo una trasformazione rispetto al rapporto tra liberalismo e liberismo, come poi sta cambiando anche un modo di governo, eccetera, eccetera, raccontiamo un'esperienza che è quella di Nonna di Meno Firenze, della nostra città, in cui non è Salvini, non è la Lega e non è l'ultradestra, ma è il Partito Democratico che guida la regione, che ha firmato un accordo con i movimenti pro vita, cioè con l'integralismo cattolico e religioso, un accordo che lega la regione Toscana con i movimenti pro vita, finanziando 200.000 euro ogni 3 anni e anche aprendo il loro ingresso nei consultori in una maniera non diretta, per cui ovviamente non sono direttamente presenti, ma vengono di fatto devoluti una serie di servizi, aperto una collaborazione tra i consultori pubblici e sia le sedi che gli esperti del movimento pro vita su una serie di materie, ad esempio l'accompagnamento delle donne per la prevenzione dell'interruzione volontaria di gravidanza, la mediazione familiare, ma anche il percorso di maternità. Questo avviene qua e avviene in una che era una regione rossa, gestita da una giunta che dovrebbe essere rossa, e avviene esattamente in questa direzione. Però viene da chiedersi, tante cose stanno cambiando. Fino a un certo punto, ad esempio, io ricordo dal 2013, ne parla Prearo, tutta la questione delle sentinelle, noi siamo state costrette a una politica della controffensiva, cioè passo per passo rispondere ad eventi lanciati, a proclami lanciati, a retoriche dell'integralismo cattolico. E forse anche abbiamo avuto bisogno a un certo punto di svincolarci da una logica della controffensiva, cioè di non esistere solo in risposta a quella che era un attacco radicale ai nostri corpi, ma essere in grado di generare forse anche nuovo tempo e nuovo spazio, oltre quella che era, oltre quella che era l'attacco degli integralismi. E su questo così apro la seconda domanda, alla domanda che vorrei farti. Noi ragionando, due delle cose che in assemblea spesso emergono come risposta è una, quella che ti chiedeva Angelo, cioè rispetto alla comunicazione e al linguaggio, cioè come poter, prima di tutto, poter parlare di noi e poter nominarci, oltre le accuse che vengono fatte di essenzialismo, non essenzialismo, nominarci come donne, nominarci come lesbiche, nominarci come persone omosessuali, nominarci come femministe, nominarci come, come persone favorevoli all'aborto, perché poi ti rubano tutto, perché poi con la retorica del pro vita, eccetera, cercano anche di rubare quel piano lì, ma noi abbiamo bisogno di ritornare a nominarci e forse abbiamo bisogno anche di lavorare su questo che dicevi tu, cioè di renderci comunicabili, perché altrimenti non parliamo a nessuno e non siamo in grado di rispondere. Dall'altro, al linguaggio però è anche quello che deve diciamo affiancarsi, è il lavoro sugli immaginari, cioè L'immaginario è importante, tanto loro ci lavorano, tu ci dici Citizen Go e tutti i manifesti, ad esempio, che sono apparsi recentemente a Roma, con il feto, che insomma, per cui loro sicuramente sugli immaginari lavorano, ma anche noi, mi viene in mente, finora sulla questione dell'aborto è stato tanto usato la questione delle ancelle, no? Le ancelle in consiglio regionale, è stato funzionale anche utilizzare quell'immaginario lì. Dopo un po' però forse non basta più, cioè abbiamo bisogno di un altro tipo di narrazione su di noi. A Firenze, ad esempio, noi abbiamo scelto la gioia. Noi abbiamo scelto di divertirci insieme e di provare a immaginare qualcosa di diverso con cui portare avanti quella che è sicuramente una contingenza, una vertenza contingente contro l'accordo, ma che fosse gioiosa, e quindi abbiamo scelto di essere smutandate. Cioè abbiamo scelto le mutande come elemento sia di gioco ma anche di provocazione, ma anche no, nel senso che voleva essere un modo per dire voi ci volete mettere le mani, voi avete intenzione di intervenire su ciò che riguarda le nostre scelte, sul corpo, sulla vita, e noi siamo sboccate e provocatorie, siamo le smutandate, ma abbiamo la forza per bloccare tutti i luoghi in cui voi ne discutete e per bloccare quelle che sono politiche che ci riguardano direttamente. E lo dico a proposito della riflessione sugli immaginari. Però, a partire da tutto questo, cosa dobbiamo fare noi? Nel senso, mentre lavoriamo così tanto, il movimento esiste a livello transnazionale, purtroppo dall'altro lato, cosa che emerge chiaramente nel libro, questi stanno dappertutto, ma non è che stanno nelle piazze, loro stanno nelle istituzioni, stanno nei luoghi in cui le cose si decidono veramente, stanno nei governi, stanno nelle commissioni, stanno nelle scuole, stanno con i parenti dei bambini e delle bambine condizionando poi tutto quello che si fa a livello educativo, stanno negli ospedali. Cioè il problema è che mentre noi provavamo ad elaborare delle risposte, questi si sono presi tanto, non tutto, ma si sono presi tanto, e quindi inevitabilmente anche noi nella risposta abbiamo bisogno di immaginare una intelligenza strategica e politica che risponda anche a quel piano lì. Vabbè, l'1 e 2 giugno si terrà un'assemblea a Torino nella quale discuteremo di queste cose. Ora, diciamo, è molto difficile mettere a fuoco le questioni che oggi sono, a mio avviso, poi ognuno la può pensare come vuole, particolarmente importanti. Circola un'idea, no? Circola l'idea che dobbiamo parlare di questioni organizzative. La questione è che noi dobbiamo parlare di questioni organizzative, ma dobbiamo capire quali problemi politici sono alle spalle di questi problemi organizzativi. A Milano io ho fatto una battaglia abbastanza solitaria, ve la dico, poi non so come, cioè quella di dire fate attenzione, siamo arrivati al momento in cui dobbiamo fare, sono 3 anni, abbiamo fatto tutta una serie di cose, sarebbe il momento di fare una specie di bilancio chiedendoci chi siamo, dove siamo, e il libro cerca di rispondere a dove siamo, con chi vogliamo interloquire, e poi alla fine con quali pratiche, con quali forme organizzative. Ma dopo aver risposto a queste cose, allora chi siamo? Ecco, per esempio, c'è tutta la discussione, dire donne, dire che siamo donne vuol dire essere essenzialiste, vuol dire essere Oppure la parola donna deve essere cancellata dal vocabolario perché sarebbe una essenzializzazione? Perché allora questa è una prima risposta, è una prima domanda che dobbiamo fare, che è importante, perché la nostra identità ha a che fare con la, con quelle a cui ci rivolgiamo. Ci rivolgiamo a chi? Cioè, ci vogliamo far identificare? Adesso qui andiamo in problemi troppo complessi che non sollevo qui. Voi sapete che noi abbiamo contrapposto all'essenzialismo del vecchio femminismo, della differenza, eccetera, eccetera, la decostruzione, dicendo noi dobbiamo decostruire il concetto di femminilità, di mascolinità. Però non si decostruisce con un atto letterario. Io non dico più donne del ho risolto il problema, no, perché la decostruzione è un fatto politico, sociale, una lotta che tu fai nel corso dei decenni, durante la quale distruggi quell'immagine costruita dal patriarcato e ne costruisci altre. Quindi ci sono tanti problemi sul chi siamo. Ci sono problemi sul dove siamo, che sono quelli che brevemente ho esposto qui. A chi ci rivolgiamo? Con quali linguaggi? È chiaro. Allora, io penso che noi, l'uno e il due, non dico rispondere a tutte queste cose, ma tenere conto che non si tratta solo di questioni organizzative, ma che siamo arrivati a un momento della vita di Non Una di Meno in cui serve interrogarsi, cercare di capire. E la cosa positiva di questa fase è che noi abbiamo cominciato a interrogarci su noi stessi, non sotto la spinta di una sconfitta, perché di solito quando si regredisce si comincia a dire vediamo dove abbiamo sbagliato, discutiamo. No, abbiamo cominciato a discutere di queste cose sotto la spinta di una vittoria, di un enorme e allora questo è positivo, cogliamolo questo momento per una serie di interrogativi che abbiano per un momento Non Una di Meno al centro. Non so se mi sono spiegato. Le risorse e le istituzioni? Scusa, sulla questione delle istituzioni, lì c'è un nervo scoperto. Io penso che essere anti-istituzionali di principio non ha molto senso, personalmente. Dipende da... di quale istituzioni parli, di che, a cosa c'è, diciamo, all'interno di Non Una di Meno un antistituzionalismo di principio. No, non si contratta, che io trovo una cosa bizzarra, perché se tu hai un obiettivo, poi a un certo punto devi avere una controparte. Il reddito di autodeterminazione, chi te lo dà? Te lo dà lo Stato. Vuoi contrattare? Cioè ci sono tutta una serie di scogli. No, noi antistituzionali siamo un po' per principio, perché ovviamente ciò che è istituito lo è in funzione dei rapporti di potere esistenti. Ma poi, una volta detto questo, gli atteggiamenti nei confronti delle istituzioni sono tanti e variegati. Io mi sono permessa di ricordare, da vecchia marxista quale sono e rimango, che Lenin, che era una rivoluzione, si può pensare tutto il male possibile e immaginabile, però una rivoluzione il poveretto l'ha pure fatta, diciamo, e non solo a chiacchiere, ma diciamo, l'ha fatta concretamente. Si presentava alle elezioni dello pseudo parlamento zarista, poi quello pseudo parlamento l'ha fatto fuori. Quindi essere antistituzionali di principio, perché noi siamo contro istituzioni che sono funzionali a rapporti di potere, però significa cose diverse. Oppure uno può dire no, questo vale per i tempi di Lenin, non vale più per oggi. Questo può essere un altro atteggiamento. Oppure dire abbiamo bisogno di una sponda amica in istituzioni nemiche. Cioè le cose, quello che io non accetto è un antistituzionalismo di principio astratto. Dipende, valutazioni che si fanno, diciamo. Io volevo ringraziarti, perché trovo che il fatto di averti invitato ha tirato fuori un confronto molto stimolante, e spesso, come Non Una di Meno, poi siamo sempre molto impegnati a livello organizzativo, quindi è molto ricco poter affrontare alcune cose un pochino più nel profondo. Io provo a fare delle riflessioni random di tutto quello che in qualche modo tu hai aperto questo vaso di Pandora, quindi diciamo l'hai anche un po' sistematizzato e quindi ho tantissimi pensieri per la testa, però diciamo cerco di concentrarmi su tre parole e anche un po' cercando di andare avanti su quello che stavi dicendo ora. Allora io penso che questa questione dell'identità in realtà è molto presente in quello che sta succedendo a livello transnazionale, perché penso che la risposta più potente che tutti i vari movimenti, le varie didascalie del femminismo in questo momento stanno producendo, la pluralità, e penso che soltanto nella pluralità, anche sulle specifiche opinioni che abbiamo sulle istituzioni, sul metodo, le pratiche, la comunicazione e via discorrendo, ci sia l'unica risposta a chi invece ci propone il mononeurone, il monomondo, la monopossibilità di diventare madri o non esserlo, e questo scatena a effetto domino subito il fatto che, a differenza di tutti questi movimenti contro l'aborto, noi non siamo contro di loro, quindi se X, Y, Z, X vogliono fare la famiglia del mulino bianco, vogliono fare la loro famiglia tradizionale, medievale, ottocentesca, quello che gli pare, ultra borghese, ultra ortodossa o meno, a noi ci interessa ben poco. Cioè, quindi secondo me la battaglia sulle libertà, da questo punto di vista io penso che questa marea è marea se è plurima, e quindi penso che su questo punto ci sia tanto da fare, ma ci sono, come dire, dei piccoli semi, dei piccoli germi. L'altra cosa invece che volevo dire, che un po' ti volevo fare come domanda, è diciamo dal punto di vista un pochino più di alcuni contenuti che ritengo che non sono completamente messi a fuoco, alle volte più che altro quando magari ci vediamo in situazioni molto vaste, con tante donne, dove si interzano quello che te chiamavi, no? Il mondo queer, col mondo del femminismo, eccetera, eccetera. E allora, quello che pensavo è che mi veniva un po' che c'è un... come dire, io penso che dobbiamo un attimino rischiare di più, penso che dobbiamo un attimino ricominciare da che cos'è per noi a livello politico questo impegno, perché sennò diventa un fartuttismo organizzativo per essere presenti. Penso che se loro sono presenti ovunque dobbiamo esserlo anche noi, ma non per contrapporci solo con una presenza dei corpi in piazza, ma proprio perché se delle pratiche vanno avanti, queste pratiche possono diventare di senso comune e le persone le possono, come dire, cominciare a comprendere e a capire che sono molto più intelligenti, un po' come quando si fanno delle battaglie come dire, per l'ambiente, cioè non so come dire, è una cosa che secondo me è molto più trasversale. Quindi quello che volevo dire è questa questione di essere tornati al Medioevo dal punto di vista simbolico di quello che poi definiamo nei loro contenuti, io non so se sia sufficiente, nel senso che penso che, un po' come veniva detto prima, ci sono dei problemi di business per cui ci siamo dimenticati un pochino di sottolineare o di mettere a fuoco il fatto che anche Verona era fatto perché c'è un enorme business, cioè queste potenziali case delle famiglie dove vengono messe queste ragazze e donne che rimangono incinte e che gli viene convinto di farlo questo figlio, e in realtà crea tutto un service completamente appaltato all'esterno, e quindi diciamo che secondo me non è veramente solo degradire al Medioevo, ma è anche trovare, loro stanno trovando altre forme per proporsi, per rimascherarsi, per mettere tutto sotto il tappeto, questo nome così avvincente, noi siamo per la vita come se le donne fossero le assassine, cioè stiamo attenti. Quindi volevo un po' chiederti su questa questione del business, come in qualche modo ci possiamo relazionare, perché in qualche modo penso che alla fine il movimento di Non Adomino, ma anche altri movimenti che stanno venendo in giro per il mondo, riescano a essere nella loro vita, nell'esistere, una anche sperimentazione continua e di messa a rischio di quello che cos'è andare e fare politica andando al di là della rappresentanza. E in questo senso io non ci credo tanto alle istituzioni, penso che siamo in un momento di transizione, certo le istituzioni ci sono, bisogna relazionarsi, però non le vedo da qui a 100 anni per come sono fatte adesso. Penso che lo Stato Nazione ormai ha dato tutto quello che poteva dare, dobbiamo andare oltre, e penso che dentro i movimenti, non solo delle donne ma in generale, possano nascere delle possibilità, delle porte che si aprono e che magari all'inizio non funzionano, credo dobbiamo un po' rischiare in più su questa cosa qua. Va bene, così si sente. Sulla questione dell'istituto, avevi posto prima due questioni, avevi posto la pluralità e le istituzioni. Allora, comincio dalla questione, la pluralità è un po' più complessa, diciamo, però è l'unica soluzione, cioè non è che sia possibile altro, però comincio prima dalle istituzioni. Quello che tu dici è una valutazione del presente, cioè non è una questione di principio. Dice no, io per principio con le istituzioni non ci voglio avere niente a che fare. No, è una valutazione sulle cose che oggi accadono e sul fatto che oggi le istituzioni sono disgregate, corrotte, inutili, eccetera, eccetera. Quindi è una posizione, però fa attenzione perché... una delle polemiche che c'è stata, non una di meno, è stata sulla contrattazione a proposito di un gruppo di precari che è andato a contrattare con la controparte. Allora, io posso benissimo essere d'accordo con te, però mi chiedo perché non posso contrattare con una controparte. Cioè, no, e quindi gli interrogativi sono tanti. E poi le pratiche delle compagne di Non Una di Meno sono diversissime le une dalle altre. C'è un gruppo molto interessante che sta a Matelica, io vado a presentare il libro il 25 a Matelica, sono bravissime, hanno fatto una serie di inchieste, hanno fatto delle lotte, loro con le istituzioni hanno un rapporto di ricerca di sponde amiche, diciamo così. Poi ci sono quelle che non ne vogliono sentir parlare, d'accordo, però appunto il problema è che da una parte devi fare delle valutazioni congiunturali, dall'altra devi tenere conto proprio di quello che dicevi tu. Un movimento è plurale o non è movimento, è partito. Se io ho un programma preciso delle idee, e che movimento è? È proprio, infatti, anche io sarei contraria se questa fase venisse interpretata come dobbiamo serrare i ranghi, organizzarci fortemente, avere un'ortodossia. Non è così. Dobbiamo sapere come convivere al meglio. E questo vale per le istituzioni e per tutte le questioni organizzative. Diciamo, un movimento come il nostro c'ha dei paletti. Noi siamo antisessisti, antiomofobi, anticapitalisti, antifascisti, bastano questi, di per sé bastano. Poi c'è una pluralità di proposte positive, mentre negli anti, quelli creano uno spazio all'interno del quale noi siamo d'accordo, poi le interpretazioni sono diverse, legate non solo alle diverse idee, ma anche al diverso territorio e al modo in cui questo territorio intervieni. Sì, volevo tornare un attimo indietro perché mi è venuto in mente prima due piccole così, opinioni. Su quello che hai detto, che però sono collegate. Allora, mi ha colpito quando hai detto ok, non c'è il fascismo, no, non siamo, altrimenti non saremmo qui, altrimenti saremmo in galera. Allora, attenzione, perché in realtà i compagni e le compagne che combattono anche il sessismo, l'antifascismo, sono in galera, è chiaro? No, sì, però, come dire, attenzione anche, sono d'accordissimo con quello che hai detto, perfettamente d'accordo, non è assolutamente una idea, è proprio un voler mettere, come dire, mi spaventa sempre un po' l'individuare un nemico facile da individuare, mi collego a quello che ha detto lei, questo nemico che noi stiamo combattendo forse non ha la faccia appunto del duce, forse non ha, però a livello poi delle istituzioni e di come i movimenti vengono processati, perché poi vengono processati dalle istituzioni, le inchieste sono fatte dalle istituzioni, in realtà sono processati in una maniera fascista, e questo non per fare grandi proclami, ma nella pratica di chi ha partecipato, subito e partecipato ai processi, non solo in Italia, in tutto il mondo, chi lotta contro l'omofobia sta subendo una repressione fortissima e con repressione parlo di galera vera, le compagne, i compagni e tutto quello che è nel mezzo. Quindi è vero, come dicete, è verissimo, sarebbe banale, sarebbe una semplificazione dire c'è il fascismo, non è così, siamo qui, non ci hanno sparato appena usciti di casa, quindi non c'è. Però attenzione, ci sono il ritorno alle zone rosse, c'è una decostruzione soprattutto di diritti acquisiti, e questa decostruzione è capillare e quasi, per chi non è, gli americani usano la parola woke, svegliato, no? Mi piace molto, però pochi sono woke, sono svegliati, pochi, non è vero, Verona ha dimostrato che non sono pochi, fortunatamente non siamo pochi, però siamo pochi rispetto alla massa, di cui vabbè, la massa ovviamente non prova nemmeno a contrapporsi, quindi non sente la repressione, non se ne accorge, chi si attiva e si attua. Questo mi vorrei ricollegare poi al discorso sull'aborto, soprattutto in Toscana. Allora è vero che ci mancherebbe si è acquisito un diritto dalle lotte fatte negli anni, dal referendum. Detto questo però, se io ho un diritto e nella pratica però mi viene creato una serie di limitazioni alla mia capacità di poterlo di poterne usufruire, ora non c'è più, ma con un collettivo che si chiamava Le Degenerate, di cui alcune sono qui oggi, abbiamo fatto un lavoro sui consultori di Firenze, che piano piano venivano chiusi, facevamo un consultorio qui con una ginecologa, proprio qui, un consultorio clandestino in Polveriera, e questa esperienza mi ha portato a capire che è vero che il diritto esiste ed è acquisito, innanzitutto però va fatto una distinzione classista, perché ci sono perché ci sono delle fasce tra cui le donne immigrate, le donne che hanno meno strumenti, che non parlano bene la lingua, a cui il diritto all'aborto è praticamente impossibile, è molto difficile anche in Toscana, i consultori a Firenze sono rimasti uno, due, credo, gli orari sono impossibili, cioè se nella pratica si prova ad andare a abortire, certo meglio in Toscana che a Napoli, in cui non te lo fanno praticamente nemmeno fare, perché non c'è magari i mezzi, non ci sono nemmeno, per non dire, come diceva lei, di tutti poi gli obiettori, dei dottori che vengono pagati di più se fanno gli obiettori, insomma c'è tutto un sistema che è vero, forse non è fascista nella sua dichiarazione, ma poi in realtà se non mi mette nella possibilità come donna, nella possibilità di poterne usufruire, che diritto è? Cioè il diritto esiste, ma è talmente decostruito, è talmente ostacolato, che senza arrivare all'Alabama, come è venuto fuori ieri negli Stati Uniti, che vieta l'aborto anche in casi di incesto e di stupro, quello è facile da dire, quello è chiaro che è così, no? Più difficile è, attenzione appunto a questo, no? Come comunque hai detto anche tu, più difficile è individuare i fascismi nelle pieghe di quella che l'istituzione sembra essere un'istituzione democratica, che invece ti dà un diritto. Innanzitutto non è un diritto per tutte le classi, perché come molte compagne che lavorano anche appunto con le donne immigrate e sul problema sanno molto bene, e comunque passaggio successivo appunto la repressione che viene poi usata per chi si attiva in queste lotte, non ho altra parola che dire fascista, posso usare un'altra parola, ma ecco, forse non fascismo in senso storico, ma in realtà lo è nelle pratiche, quindi ecco, volevo porre l'attenzione su questo, forse non serviva, ma... No, hai fatto bene, però è esattamente quello che stavo dicendo io, cioè che non c'è bisogno di dire fascismo perché emergano pratiche repressive. Voglio farti solo un esempio concreto. Io mi sono radicalizzata nel lontanissimo 1960, è stato l'anno in cui ho partecipato alla mia prima manifestazione. C'era la Democrazia Cristiana, democrazia e cristiana, quindi due aggettivi insieme. In questo ciclo di manifestazioni antifasciste furono ammazzate 11 persone. Non so se è chiaro, cioè 11 persone ammazzate dalla polizia della Democrazia Cristiana. Non bisogna dire solo se c'è il fascismo, è esattamente quello che stavo dicendo quando ho portato l'esempio di Erdogan, populista, destra radicale, non c'è bisogno di dire fascismo, però il fascismo rappresenta un salto qualitativo, cioè non è utile fare una equivalenza, perché la democrazia formale di cui parla Marx, liberale, eccetera, contiene quelle cose che tu dici e che ho detto io sul 60 al proprio interno. Poi questo cova l'uovo di serpente del fascismo, che è la fase, tu dici i compagni sono in galera, certamente, sai, quando, io un po' di galera me la sono pure fatta, tanto per gradire, diciamo così, ma in prigione ci sarebbe molta più gente, ci sarebbe lo squadrismo, che in parte c'è, torna la violenza, ma sono elementi. Allora, io che cosa dico? Che cosa dico io? Cosa, c'è un dibattito, diciamo, a sinistra in cui si dice c'è il fascismo, non c'è il fascismo, eccetera, eccetera. Allora, la risposta, dire in questo momento non c'è, ma attenzione, ci sono cose che sono molto gravi. Ci sono quelle che Ugo Paletà, che è uno che ha affrontato questa problematica, chiama equivalente funzionale. Cioè, che cosa significa? Non c'è il fascismo come quello storico, ma ci sono una serie di elementi equivalenti. Però attenzione, perché poi può esserci, non si può escludere. Cioè, io tutti i discorsi tranquillizzanti, che secondo me sono anche giusti, ma sono troppo tranquillizzanti, di chi dice tanto i circoli economici più importanti non userebbe, tanto che gliene frega, non c'è più il comunismo, è morto il socialismo. Attenzione, perché questi hanno bisogno che la forza lavoro si faccia sfruttare, quindi che sia mantenuto una forma di consenso con la forza, con le buone o con le cattive. E se continuano ad accumularsi gli elementi di crisi politica ed economica, poi sono d'accordo con te sulla questione dell'aborto, certamente ne abbiamo fatte di lotte per cercare di far applicare una legge che manco non è una legge profondamente imperfetta, ma nemmeno quella viene applicata. Grazie. Se mi siedo, sono più conta. Allora, ciao a tutte, io sono Martina, una compagna anarchica, e volevo in realtà fare una riflessione e chiedere a Lidia una sua opinione rispetto a una questione che anche nel libro ho visto è stata trattata, cioè la questione un po' spinosa della gestazione per altri e per altre. E quindi, siccome abbiamo parlato per ora, insomma, di questioni che, come dire, hanno messo un po' la croce su partiti tradizionalmente almeno di sinistra, penso al PD, ora vorrei, insomma, complicare un po' il quadro, come dire, no? Andare a mettere un po' il dito nella piaga, perché per ora siamo state tutte brave, però adesso, insomma, forse è bene tirare fuori un po' il rospo, no? Allora, questa questione della gestazione per altre, per altri, molto probabilmente lo sanno già qua, quindi, insomma, io eviterei anche di fare il riassunto delle puntate precedenti. Quello che a me preoccupa molto è appunto questa liaison dangereuse, questa relazione un po' pericolosa che si è creata tra le femministe differenzialiste, pensa alla Muraro, insomma, la classica posizione anche, insomma, sulla questione della salvaguardia dell'utero con la U maiuscola come simbolo, come dire, dell'essenzialità femminile, giusto? Appunto, si parlava di essenzialismo prima, no? Abbiamo anche l'organo in cui l'essenza femminile si incarna, no? Ed è l'utero, appunto. Questa relazione pericolosa fa appunto tra femministe differenzialiste e le integraliste religiose, ne parlavamo prima. Alcuni giri di lesbiche radicali separatiste, penso a una parte di Arcilesbica, parte abbastanza cospicua, devo dire, e contesti antispecisti anche anarchici, penso alla Guerini, ma insomma anche ad altre. Io personalmente ho avuto un epistolario abbastanza feroce con Daniela Danna un po' di tempo fa, che è una delle, come dire, delle più, lo so, appunto per questo te lo dico, appunto per questo te lo dico. Tra l'altro do un'informazione abbastanza poco carina, però io penso sia importante dirsi le cose un pochino fuori dai denti. E a me non piace molto il fatto che una compagna, pensa a Daniela, insomma, che si è sempre considerata, si continua ancora a definire libertaria, abbia fatto un convegno pochi mesi fa a Bologna con alcuni esponenti di giri fascisti. giri fascisti, mi prendo la responsabilità di quello che dico perché è in rete una cosa che si può benissimo insomma verificare. Giri fascisti intendo esponenti di case editrici fasciste, quindi non come dire cose di case editrici fasciste, esponenti di giri, sì, questa cosa che è successa e non è la prima volta, tra l'altro, insomma, che lei ha frequentazioni, diciamo, quantomeno oblique. Tra l'altro, secondo me, le posizioni che ha portato avanti su questa cosa sono molto scivolose su un piano che è appunto oscillante tra l'integralismo religioso e, non voglio dire appunto posizioni fasciste, ma quantomeno, diciamo, c'è una complicità che non mi piace molto. Quindi io sono molto preoccupata su questo e questo lo dico anche al di là, diciamo, del merito sulla questione della gestazione per altri, che credo che sia un tema su cui inevitabilmente, voglio dire, il movimento femminista si divide, si dividerà, perché è qualcosa di profondamente iscritto nella sensibilità individuale di tutte noi, quindi è impossibile pensare che si debba uscire con una posizione comune. Quello che però a me interessa da compagna, soprattutto da anarchica, è il fatto che si possa preservare la possibilità per tutte di avere un'opinione diversa su queste cose, di avere dei dubbi sacrosanti, voglio dire, no? Io ne ho molti sulla questione della gestazione per altri, penso che sarebbe insomma anche forse banale e superficiale non averne, no? Anche semplicemente il fatto che comunque coinvolge una mercificazione del corpo delle donne che vivono in paesi del mondo più svantaggiati, che sono maggiormente indebolite da un punto di vista economico, di questo noi dobbiamo comunque farci carico, no? Poi la mia opinione personale è che ovviamente fin tanto che esiste un sistema capitalistico è francamente molto difficile che si possa parlare di una gestazione per altri libera, perché per me l'unico modo per poterla in qualche modo accettare è che sia veramente uno scambio privo di profitto, però perché questo avvenga ovviamente, diciamo, dovrebbe essere al di là appunto di una questione normata, quindi dovrebbe proprio non avere niente a che fare né con la legge né con la normatività né con soprattutto né con il profitto. Finisco dicendo che sono molto preoccupata soprattutto perché il dibattito che ha preso una piega secondo me molto sbagliata, molto brutta, e io rimango sempre piuttosto perplessa se non addirittura infastidita, e sto usando un eufemismo, vi assicuro, quando vedo delle compagne come ad esempio Agramolini che propongono la galera per le donne che eventualmente volessero, come dire, praticarla in modo illegale. Ora, francamente, io non amo particolarmente la polizia, non mi piace, ecco, che sia una donna, per di più una donna che dovrebbe essere dalla mia parte, a dover in qualche modo auspicare la galera o la polizia per altre donne che la vedono in maniera diversa. Quindi insomma, su questo vorrei sapere, insomma, non solo come la pensa Lidia, ma se volete insomma anche cosa ne pensate voi, cosa ne pensa chi è qua. Grazie. Sì, se volete. Non so se ci arriva, però faccio la valletta. Sì. No, io volevo però riallacciarmi ad altri discorsi che erano stati fatti su questa difficoltà che c'è anche a Firenze per il Provita, siete andate al Consiglio regionale, eccetera. E, cioè, volevo ricordare semplicemente che qui non è una regione rossa, questa in cui viviamo noi, per il semplice motivo che il PD non è un partito che proviene interamente dal Partito Comunista, cioè sappiamo benissimo che fu un'idea di Veltroni mettere insieme DS e Margherita. E la Saccardi, che dirige la sanità e che quindi prende queste iniziative, è Margherita, una parte della Margherita. E lei vuol prendere il posto di Rossi. Quindi non c'è da stupirsi che stiano venendo fuori queste iniziative pro vita, perché quella è Democrazia Cristiana, come era Democrazia Cristiana Renzi, semplicemente, che è entrato nel PD per distruggere i DS e ci è riuscito, infatti, no? Ha fatto la sua piccola parte. Quindi questa è la problematica di tutto quel pensiero a cui ha accennato anche lei della Democrazia Cristiana, che rivaluta questi valori dei diritti del neonato, non tenendo conto dei diritti della donna, naturalmente. Quindi, cioè, credo che quando si prendono poi queste iniziative, no, per difendere il diritto di poter esercitare l'aborto e tutto quanto, e sappiamo benissimo anche a Firenze è in difficoltà, bisogna tenere conto che siamo in questo contesto che non è di regione rossa, assolutamente, casomai sarebbe mezza, ma purtroppo anche quella mezza poi non lo è per tutti. Allora, a proposito della questione della gravidanza per altri ed altre, dunque, ieri io ho avuto il mio ennesimo confronto con Cristina Gramolini a Bergamo. Perché discuto spesso con Cristina? Perché siamo state molto amiche, abbiamo addirittura vissuto insieme 10 anni, quindi non come compagne innamorate, ma come coinquiline, però con un rapporto di amicizia molto stretto, e mi ricordo una persona completamente diversa. Che cosa sia successo? Io penso che l'air du temps, come la dicono i francesi, è l'aria del tempo, sostengono posizioni che io ritengo di destra, che però, attenzione, in altri paesi europei sono più diffuse anche che in Italia, e bisogna su questo fare molta attenzione e cercare di capire qual è l'elemento che fa scattare questo tipo di reazione, perché c'è qualcosa sull'utero in affitto che fa scattare una reazione di ripulsa da parte delle donne, e una reazione di tipo proibizionista sbagliatissima, ma che ha delle radici. E quindi qual è il vero problema? Il vero problema era quello che dicevi tu. Su queste questioni non puoi fare crociate, ci sono degli interrogativi, cioè la questione dell'utero in affitto o gravidanza per altri. Io ho coordinato un libro che ha questo titolo, della Franco Angeli, che si chiama Utero in affitto o gravidanza per altri, col punto interrogativo, e qui ci sono state esposte le varie posizioni su questo tema. È una cosa pazzesca, ridicola, quella di fare una crociata su questioni che sono in dubbio terribilmente. Faccio solo un esempio. Laura Corradi, che anche lei è una mia amica, diciamo di quelle con cui avevo tante amicizie e che era presente ieri a Bergamo, sostiene che la PMA, cioè la procreazione medicalmente assistita, che poi è legata alla GPA perché ovviamente ha dei rapporti, produce gravi danni non solo alla donna, perché lì si potrebbe dire, vabbè, la donna basta che sia informata, cavoli suoi, poi se i rischi li vuole correre, pure una donna che si fa il lifting corre dei rischi, sceglie però di correrli. Allora, siccome la risposta è facile, subentra il bambino, che è sempre la posta in gioco, no, il bambino è sempre quando si vuole bloccare qualche cosa, il bambino, le donne non hanno diritto al voto, non hanno diritto a far poi il bambino, perché l'aborto, il bambino, anche in questo caso, perché ci sono dei danni al bambino. Ora, questa questione è molto controversa, perché io ho letto moltissime altri contributi medici, altrettanto scientifici, che dicono sì, c'è pericolo, ma di alcune pratiche, non di altre, quelle per esempio dell'iniezione nell'ovocita, cioè sono delle pratiche specifiche. Poi ci sono tutta una serie di inghippi nel paragonare i bambini nati naturalmente e i bambini nati con la PMA, non si tiene conto dell'età. Di solito le donne che ricorrono alla PMA sono più vecchie, perché ci hanno provato in ogni modo, hanno delle malattie che non gli hanno consentito di avere dei figli, cioè tutto quello che c'è. Allora, diciamo, in una cosa io poi non prendo su questo, non me la sento di prendere posizione, di dire no, Laura Corradi ha torto e queste altre cose invece hanno ragione, però è controverso, non puoi fare una crociata quando i dubbi sono tanti. E le controversie sono su molte cose, sull'etica, sulla politica, sull'opportunità in questa fase della storia di fare una campagna che ti mette, che fa scrivere a Cristina Gramolini, su questo sono d'accordo con Salvini. Adesso sei d'accordo con Salvini, ma hai bevuto. Insomma, non lo so, ma la cosa pazzesca è che Cristina è una ragazza, insomma, per me è una ragazza, c'ha oltre 50 anni, quindi è una ragazzina. Cioè, è una persona intelligente. Io mi chiedo quali tasti, che cosa di profondo scava una cosa del genere. Perché poi anche quello che tu dicevi, quella etica, certamente, però quella etica è facile dirlo, meno facile farlo. E poi per quella che non è etica, proibizione o diritti? Cioè, ci sono tanti dubbi, per cui per me la cosa più folle è proprio quella della crociata su una cosa così strana. Io torno un attimo indietro rispetto al discorso e volevo fare una domanda riallacciandomi a quello che veniva detto nell'introduzione, no? Sul legame che c'è anche fra il fallimento e la crisi di una politica liberale e l'avanzata di appunto di questi gruppi di estremisti religiosi. Fra l'altro a me veniva da pensare mentre venivano descritti, no, che gli stessi fanno il mostro dell'estremismo religioso islamico, quando in realtà se uno va a guardare cosa dicono di come funziona il mondo sono veramente molto simili, e il loro, e la loro internità anche la, sia un processo di reazione alle donne, ma non solo, alla gente che si mobilita, che alza la testa, che diceva lei all'inizio, sia al rapporto con le istituzioni e la gestione del potere. Quello che mi veniva da pensare rispetto a questo è che più che loro, che hanno la capacità e i mezzi di infilarsi, sia anche un po' il contrario, nel senso che loro servono alle istituzioni, serve un po' la dimensione del quando c'è crisi c'è bisogno, appunto, le squadracce fasciste che non c'erano ma ogni tanto si manifestano, così allo stesso modo l'integralismo religioso dal potere nelle sue varie articolazioni. Io credo che non venga abbracciato in una misura di fede religiosa né di simpatia o di crederci, credo che sia anche proprio una cosa molto cinica e strumentale. Serve che ci sia questa gente che dice queste cose, serve che ci siano i cattolici nei consultori a impedire di abortire, no? Perché magari vietarlo avrebbe un costo diverso, però si sposta, no, anche un po' la responsabilità su una questione religiosa, che poi in realtà religiosa non è, che la presenza, la ricchezza di gruppi di estremismo religioso sia, quando serve, molto funzionale anche a una dimensione appunto della sottomissione. Poi loro lo dicono in maniera esplicita e probabilmente chi li segue ci crede sinceramente in queste follie, però appunto la costruzione di queste follie serve anche un po' a mantenere o anche a modificare delle dimensioni sociali, e secondo me nel senso anche per dare nel senso un elemento di ottimismo in un quadro che sicuramente non è roseo, anche in relazione a una situazione in cui certe cose hanno bisogno di riaffermarle anche con una certa violenza, perché non sono più così scontate, mi viene da dire, qui ma anche a livello globale. Io credo che nel senso ci sia comunque una forza dall'altra parte che chiama a tirare in mezzo questi qua, e credo che questo appunto ci debba far vedere ogni tanto anche l'altra faccia della medaglia, che forse è un po' meno nera, un po' meno fascista di quella che giustamente bisogna conoscere, non voglio sottovalutare, però appunto... No, io volevo giusto sollecitare Lidia su un aspetto che poi si intreccia anche con queste ultime cose. Non credo sia una casualità, però mi piacerebbe sapere cosa ne pensi, il fatto che siamo in un periodo storico in cui c'è contemporaneamente la più cruda recrudescenza e aggressione da parte del capitale liberista sulle dinamiche di estrazione di profitto in tutto il mondo, e contemporaneamente uno dei momenti di più cruda recrudescenza per quello che riguarda l'attacco dei diritti alle donne, alle soggettività LGBT, alle sessualità non conformi. Quindi anche, diciamo, un po' in questa intersezione anche gli aspetti materiali che dialogano fra loro in questi due attacchi fortissimi che arrivano contemporaneamente in questo contesto storico post-crisi del 2008. Beh, l'hai detto, cioè, sono d'accordo con te. Cioè, le due cose sono collegate ovviamente. Perché, diciamo, non voglio cominciare adesso un discorso che è troppo complicato, in realtà il capitale non è solamente sfruttamento, è anche dominio e alienazione. Allora, che significa dominio? Significa che da una parte si può ha intenzione di sfruttare, ha l'obiettivo di sfruttare, ha l'obiettivo, diciamo, di ha un'accumulazione capitalistica, eccetera. Dall'altra parte bisogna che chi viene sfruttato in qualche modo accetti questo sfruttamento o comunque non sia in grado di ribellarsi. Cioè i due aspetti sono veramente strettamente collegati, come Pietro diceva, no? E il fascismo storico, chiamiamolo, quello degli anni venti, quello di Mussolini, eccetera, è contemporaneamente fortemente liberista e repressivo, violento, perché ha bisogno di far passare il liberismo e di far passare il dominio. Oggi questo connubio liberismo, repressione e, diciamo, involuzione politica si presenta, per esempio, con Bolsonaro, con Orban, con Erdogan, con Orban, cioè è una cosa che ha una reciproca, in cui c'è una logica di reciprocità. Volevo dire una cosa che mi ero dimenticata di rispondere a proposito dei soldi. Quelli sono, e nel libro è scritto, sono il movente principale. E infatti c'è, non so se lo avete visto, il documentario Aborto le nuove crociate, in cui si scoprono gli altarini seguendo il flusso dei soldi. Dice, basta andare, sentire l'odore dei soldi, odorare l'odore dei soldi e andare per rendersi conto, per esempio, che sono gli evangelicali americani o gli ortodossi russi che pagano i cattolici europei, spagnoli, francesi, italiani, eccetera. Quindi c'è un flusso di denaro che è fondamentale. La cosa a cui mirano sono esattamente i soldi. E non siamo nel Medioevo, siamo nel capitalismo, in cui quello che conta alla fine, quello che fa i rapporti di forza è il denaro. E quindi è un Medioevo nell'immaginazione, è invece un capitalismo nei fatti. È Medioevo capitalista, che è un anacronismo, ma è così. Ci sono altri commenti, domande? Se qualcuno vuole esprimersi lo dica adesso, perché tra poco dobbiamo chiudere. Io volevo farti un'ultima domanda che mi è venuta in mente un po' da alcuni confronti che abbiamo fatto dentro la riunione del mercoledì alle 19 di Non Una di Meno a Firenze. Io pensavo, anche quando ci raccontavi di queste 500.000 persone a Roma che sono cosiddette antiabortiste o alle varie situazioni così anche vaste, no? Per esempio, io mi trovo alle volte, ma non penso sia un'esperienza solo mia, abbastanza in difficoltà in due situazioni, e su questo ti volevo fare una domanda. Cioè, una, io ancora non sono riuscita a decifrare il perché così tante donne erano dentro il congresso di Verona, partecipano a tutti questi movimenti, ci sono state delle interviste aberranti davanti all'entrata che sono state pubblicate online, sono andate sulle televisioni, in cui c'era addirittura una tipa, ha avuto il coraggio di dire in tre parole non vedeva l'ora che l'aborto fosse vietato, perché vengono ammazzati un sacco di bambini l'anno, cioè tutte delle cose abominevoli. E quindi su questo mi trovo a tanti livelli e gradi in difficoltà, perché gradazioni differenti in cui le donne si mettono in delle situazioni solo esclusivamente di un certo tipo e che le connotano solo in una certa maniera, poi è molto difficile relazionarsi anche in un discorso magari di movimento più aperto in cui uno si mette in discussione, eccetera, eccetera. E l'altra cosa è, dentro appunto questa marea transfemminista, la relazione alle volte con l'altro sesso, con gli uomini, in cui alle volte appunto ti capitano degli episodi in cui dici, vabbè sì, voi andate al consiglio regionale, lanciate le mutande, ma a me che me ne frega, cioè nel senso come se fossero robe vostre, no? Allora mi chiedevo anche come si possono aprire delle porte per trovare un livello più alto della discussione in cui questa cosa non è una cosa, perché allora nel senso se questo discorso che loro fanno fosse giusto, allora io non dovrei neanche scendere in piazza per il Kurdistan, non dovrei neanche scendere in piazza per quello che sta succedendo da altre parti del mondo, perché non mi riguarda, io non sono, cioè, non so come dire, no? Allora penso che su questo, per esempio, alle volte si entra in un cortocircuito, e volevo sapere un po' che cosa ne pensavi di queste relazioni, nel senso che ci sono anche tante donne che fanno altre cose e non con tutti gli uomini ancora è possibile dialogare su certe tematiche. Guarda, vi posso dare un consiglio. Chiamate Lea Melandri. Vi spiego perché. Perché io tendo a dare risposte di tipo politico-razionale, no? Cioè a dire il fatto che siamo donne non elimina il fatto che ci sia una subalternità ideologica, culturale, e quindi che non basta essere donne, bisogna avere sviluppato una coscienza critica, come non basta essere classi subalterne per essere anticapitaliste, come non basta. Cioè, però questa è una risposta appunto troppo razionale. Lea Melandri spiega, dice, perché esiste una forma di complicità delle donne con gli uomini involontaria, cioè non è che deriva da, per esempio, dall'erotizzazione di quello che dovrebbe, che è il, diciamo, il tuo oppressore in una certa misura, soprattutto se è un uomo di destra, cioè non solo se è un uomo di destra, ma in modo particolare se lo è, ma tu con questa persona c'hai dei rapporti, c'hai dei figli, c'hai dei rapporti sessuali, quindi una tendenza all'erotizzazione. Questo lo spiega benissimo Teresa De Lauretis, l'erotizzazione. Cioè, perché tante lesbiche sono state nel movimento femminista le dirigenti, quelle che hanno da... Perché sono quelle che non erotizzano il maschio e quindi involontariamente, erotizzando il maschio, erotizzano l'oppressione. E quindi... Oppure ti direbbe Lea Melandri, di cui io faccio in parole povere, lei userebbe una terminologia molto più appropriata, perché le donne in questo rapporto tradizionale che hanno con gli uomini hanno comunque un potere, la madre. No, se si pensa al potere che ha la madre sui figli, diciamo... per molti aspetti, quindi questi aspetti di tipo psicoanalitico io non sono proprio versata, nel senso che la psicoanalisi l'ho studiata anche perché ho scritto anche delle cose negli anni passati, quando c'era il dominio del cosiddetto pensiero della differenza e c'era la Lucy Rigaret quindi bisognava in qualche modo confrontarsi con la psicoanalisi, ma tendo poi sempre a razionalizzare fortemente, e quindi vi consiglio, su, per avere delle risposte, di rivolgervi a Lea Melandri. Poi tu dicevi un'ultima cosa dicevi? Che gli uomini... No, nel fare politica questo fatto delle donne è uno scoglio. Sì, no, nel senso, scusate, forse mi sono espressa male, però io volevo dire che nelle pratiche politiche, quando dicevo anche prima nell'altro intervento, andare a rischio e creare delle praticità in cui entriamo nel rischio, intendo questo, cioè intendo andare al di là di quello che noi, della nostra rete, dove noi abbiamo già tutti i nostri contatti, dove in qualche modo dominiamo quel mare e quei pesci, e andare fuori da questa cosa, perché, come dire, è là dove dobbiamo andare, altrimenti rimaniamo nel nostro germinato, e questo non ci farà mai arrivare a un livello in cui le pratiche diventano delle cose che possiamo incorporare a livello della società tutta. E quindi quando ti facevo questa domanda, io la intendevo come domanda politica, cioè nel senso che poi quando scendo in piazza mi trovo, come dire, a trovarmi di fronte a delle difficoltà, o mi trovo a comprendere che altre persone non li invitano neanche, gli uomini, perché magari non si sa nemmeno come invitarli o non si sa nemmeno come confrontarsi. Quindi era una domanda in realtà politica, non era psicoanalitica, però capisco quello che te vuoi dire, e penso che comunque l'immaginario anche che te ci relazionavi, seppur di Lea Melandri, sia comunque qualcosa da cui partire. Io voglio dire una cosa che forse non c'entra con quello che hai detto, però, perché mi evo... Cioè, il problema è che bisogna scendere in campo. questo io, cioè, noi bisogna, l'avete fatto, no, nel senso che lì impari, lì è dentro, diciamo, nel, in questa relazione con altre donne che non fanno parte di una cerchia ristretta, tu lì cammini, diciamo, e impari la relazione, altrimenti se non cominci a andare per la strada, a parlare con la gente, a fermare le donne, io penso che sia molto difficile a prioristicamente darti un modello. Quindi io mi scusate se faccio come le nonne, no? Che dici, ai miei tempi, allora, ai miei tempi, quando io avevo 20 anni, 24, 25, eccetera, eccetera, militavo in un partito che si chiamava Partito Comunista, poi sono scappata dopo, però per un certo periodo ci sono stata dentro. Allora, in questo partito ci insegnavano come si avvicinava la gente, no? Cioè si diceva, vai nel tram, addirittura ci insegnavano a fare un finto litigio nel tram per affermare certe idee. Questo, cioè, dire, voi fate finta di fare una discussione. Ah? Sì, non abbiamo di fingere, cioè non c'è bisogno di fingere, noi si litiga proprio così, no. Tram, a giro, tra tu. Si è no, fatto proprio nel un senso, passaggio. Ecco. Voglio dire, bisogna scendere in campo, è inutile, prima che le cose avvengano non hanno significato. C'ho solo un micro dubbio, scusami, veramente me lo voglio levare perché è interessante. Quando hai detto quella cosa su, no, nei movimenti femministi delle lesbiche, no, che non erotizzavano il maschio, e quindi, ma si può dire che in realtà assumevano, forse avevano già introiettato, assumevano il ruolo maschile nella compagine femminista? Sì e no. Ah. Sì e no, nel senso che in parte il ruolo maschile, in assenza di modelli, cioè ognuno non è che nasce dal nulla, tu hai dei modelli nella società, se no non cresceresti, e quindi in parte, diciamo, quel modello poteva ispirare un po', ma poi tu non eri quella persona, quindi in realtà quello che proponevi era una cosa che era e non era, ma era una cosa tutto sommato diversa. Grazie. Mi sa che dobbiamo chiudere, siamo già ampiamente in ritardo. Comunque, sì, sì. Ringraziando Lidia per la generosità con cui insomma ci hai accompagnato nella presentazione del libro che hai curato, e volevamo anche ricordarvi di seguire attentamente tutti gli appuntamenti delle smutandate, perché smutandate siamo tutte, e sicuramente la settimana prossima, giovedì 23 alle 17 a Brunelleschi, proietteremo proprio Aborto le nuove crociate, e poi in generale in futuro ci saranno nuovi appuntamenti, un'assemblea regionale con tutti noi in una di meno, per cui insomma per recidere l'accordo e in generale per la rivoluzione femminista bisogna che scendiamo tutte in campo.